Parlando del suo matrimonio, Jackie non si fa alcuna illusione. Ad un'amica ai tempi della Casa Bianca confesserà: sposando John, sapevo che avrei conosciuto delusione e disperazione, ma decisi che sarebbe valso il dolore di vivere quella disperazione. Oggi su Radio 24 stiamo raccontando la storia di una First Lady che ha rivoluzionato i costumi dell'America degli anni 60, Jacqueline Kennedy. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24. Oggi stiamo raccontando la storia di una donna, di un'icona dell'America degli anni 60. Di origini francesi, Jacqueline Bouvier conosce John Kennedy, rampollo di un'importante famiglia americana, promettente uomo politico dalla vita dissoluta, e il 12 settembre del 1953 si sposano. John e Jackie si sposano nella chiesa di Newport. Tutti i giornali del paese riportano la notizia del loro matrimonio. La chiesa è circondata da una folla di curiosi. I Kennedy hanno imposto una celebrazione grandiosa. Ai loro occhi anche quel matrimonio fa parte della campagna politica che dovrà proiettare John sulla scena nazionale. È stato il padre Joe a convincere John a sposarsi. Con il cinismo ben pensante tipico dei Kennedy, ha spiegato al figlio che la sua carriera politica gli impone di prender moglie. Dopotutto ha aggiunto: non cambierà nulla, solo l'apparenza. Tra gli invitati che vogliono congratularsi con lei c'è anche un'amica di Jackie, dalla vita sentimentale tormentata. Non senza imbarazzo, Jackie le chiede: come si fa a sopportare un marito infedele? L'amica le risponde: io ho sempre pensato che alla fine mio marito ama solo me. Jackie avrà visto le fotografie scattate da Jean-Henri Lartigue sulla Costa Azzurra appena 2 settimane prima del matrimonio? È a conoscenza delle relazioni di John con una giovane svedese a cui, appena fidanzato con Jackie, aveva promesso di sposarla? Ai suoi più intimi amici dice: ecco come si comportano certi uomini, a cominciare da mio padre. Appena sposata è già tradita. Jackie è diventata una persona nervosa. Si mangia le unghie, fuma una sigaretta dopo l'altra. Racconterà poi: ero sola quasi tutti i weekend. Non avevamo nessuna vita familiare e la politica era diventata la mia nemica. Ottobre 1954. Un intervento deve scongiurare una quadriplegia permanente. Per John è il primo appuntamento con la morte. Traumatizzato dall'operazione, invalido, John lascia l'ospedale di New York e la vita politica per iniziare una lunga convalescenza. Ora John è tutto per lei. Approfittando di quella immobilità inaspettata, gli fa scoprire ciò che lei ama di più al mondo: l'arte e la cultura. Gli insegna a dipingere, lo incita a scrivere un libro sulle figure politiche più importanti. Profiles in Courage vincerà il premio Pulitzer. Nessuno saprà mai quanto in quel libro ci sia del talento di Jackie. Di ritorno a Washington, John dice: finalmente ho capito fino a che punto Jackie è diversa da tutte le donne che ho conosciuto fino ad oggi. Jackie invece sa che, nonostante le belle parole, John non ha la minima intenzione di cambiare. John racconta a Jackie che l'esperienza della malattia lo ha reso fatalista. La vita è breve e dolorosa e non bisogna mai rinunciare ad un piacere che ci si offra. Come si sente ad essere tornato? È un'impressione meravigliosa. Ho aspettato questo momento per 7 mesi. John è destinato a diventare presidente e Jackie, consapevole del suo ruolo, non è senza un po' di amarezza, è disposta ad aiutarlo, anche se la politica non le interessa. Un giorno John si lamenta con un suo amico: Jackie è formidabile nella vita privata, ma secondo te imparerà cos'è la vita politica? Jackie si gira verso l'amico e aggiunge: John è formidabile nella vita politica, ma secondo te imparerà cos'è la vita privata? JFK deve seguire il suo destino. Di rado si vede John accanto alla loro bambina Caroline, nata il 27 novembre del 57. Decine di stati da visitare, centinaia di discorsi da pronunciare, migliaia di mani da stringere. Che cosa si aspetta Jackie dal sostegno costante alle campagne politiche del marito? Quale contropartita, quale riconoscimento da parte di John? È il leader di un'America prospera, per un mondo pacificato, per tutta l'umanità.

quando i consiglieri gli fanno notare che è stato troppo a lungo lontano da lei, John torna a trovare Jackie come per verificare che per lei le gioie della maternità siano sempre un'occupazione a tempo pieno, capace di farle dimenticare l'incostanza del marito. Ma Jackie non si fa illusioni su queste visite di circostanza. D'altronde, anche quando John è con lei, lo sente assente. Tra l'ottobre del 1961 e l'agosto del 63, i registri della Casa Bianca riportano 15 visite di Mary Meyer, di cui 14 quando Jackie è assente. Mary è la relazione più lunga di John e del resto non è l'unica visitatrice del presidente e Jackie ne è perfettamente al corrente. Ma tutto questo reagisce con il disprezzo, non vuole parlarne né sentirne parlare. Teme molto uno scandalo sulla loro vita privata. Dietro ad ogni giornalista vede un voyeur, dietro ogni cronaca una biografia indiscreta o un articolo scandalistico. Jackie continua lo stesso ad aiutare John a creare il suo personaggio. Il presidente, orgoglioso di aver sposato una donna elegante e poliglotta, lascia che la First Lady affascini le folle di Stato. Quanto a Jackie, forse perché consapevole di occupare un posto che nessuna delle amanti di John può sottrarle, ella svolge splendidamente il suo ruolo di ambasciatrice. Sono felice di poter accompagnare mio marito in Venezuela. Al loro ritorno dall'America del Sud, poco prima del Natale del 61, Joe Kennedy, il padre di John, viene colpito da un attacco apoplettico. Per una vita Joe ha ripetuto ai figli: non siate secondi, non serve a niente, vincete. Ora è giunto il momento della fine del suo cammino. Con lui scompare quell'unico membro della famiglia Kennedy che capisse intimamente Jackie, che tante volte ha pagato le fatture dei suoi vestiti per evitare che John rimproverasse alla moglie quei conti troppo elevati. Jackie e il suo guardaroba. Natale del 61, Jackie viene eletta donna dell'anno dalla stampa. Compra abiti in modo compulsivo, nasconde continuamente un corpo che non ama, non sopporta neanche le proprie mani che copre con i guanti. Perché sono troppo grandi e perché alcune dita sono macchiate dalla nicotina. Ma Jackie è consapevole del mito che ha contribuito a creare e del posto che occupa nella leggenda dei Kennedy. 13 febbraio 1962. Jacqueline accetta che la rete televisiva CBS visiti la sua Casa Bianca. Signora Kennedy, grazie di averci aperto le porte della sua residenza. Questa deve essere la stanza in cui lei lavora. Sì, è un solaio e una cantina insieme. È la prima stanza che attraversano gli ospiti in visita alla Casa Bianca. Gli invitati entrano ed escono da qui. Per questo deve essere gradevole. Mi piace questa stanza. È piena di sole. Dalla finestra si vede la magnolia di Andrew Jackson. Il letto di Lincoln è particolarmente famoso. Tutti i presidenti l'apprezzano. Anche se continua a tradirla senza sosta, John ammira sempre di più il talento di Jackie. È il marzo 1962. Jackie parte da sola per l'India e il Pakistan. Nel corso del viaggio fa tappa a Roma per incontrare Giovanni XXIII. È in missione per conto di John che l'ha inviata in India per cercare di limitare i dissensi tra Nehru e gli Stati Uniti. Pian piano Jackie ha acquisito un senso politico molto acuto e, a differenza della cerchia del presidente, lei non è divorata da nessuna ambizione professionale, il che le consente un implacabile spirito critico. Mentre Jackie visita il Taj Mahal, Edgar Hoover, il discusso capo dell'FBI, mette in guardia John. Le sue innumerevoli conquiste amorose mettono a rischio la presidenza. Quel 22 marzo del 62, Hoover lo costringe a rompere con Judith Campbell, anche perché la donna ha rapporti con la mafia. L'Hotel Carlyle a New York è qui nella sua garçonnière segreta che il presidente riceve le attricette, giornaliste della stampa, amiche di Jackie e prostitute. È qui che riceve Marilyn Monroe, che incontra la prima volta proprio durante il viaggio di Jackie in India. Jackie ritorna via Londra e ritrova John. Sa che in sua assenza non ha trascorso nemmeno una sera da solo. Quando lo ha chiamato da Bombay, Delhi, Lahore, il telefono ha sempre squillato a vuoto. La loro presenza alla messa domenicale di Palm Beach è quanto mai opportuna. Serve a mettere in chiaro le cose e a tranquillizzare l'opinione pubblica.